Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Benvenuti e benvenute a Mebius, abbiamo tanta roba da raccontarvi, quindi io adesso vi dico subito, ascoltate i titoli. Primi finalisti italiani di Fame Lab, il talent show dedicato alla scienza. Vi facciamo ascoltare la selezione di Mebius. Diego da Arcisate ci chiede: come sono partiti da Marte i sassi che sono stati rinvenuti nel deserto del Marocco? Diamo la parola all'Istituto Nazionale di Astrofisica. Memoro.it, la banca della memoria online. È un progetto no profit italiano che accoglie in digitale i racconti delle persone nate prima degli anni 50. Un nuovo incubatore si apre a Benevento. Un segnale importante per fare ricerca e impresa nel meridione del nostro paese. Arrivano i Soft Robot, una nuova generazione di automi realizzati con materiali morbidi, in grado di muoversi con grande flessibilità senza bisogno di un cervellone centrale. Il primo è Octopus, il polpo tutto italiano. A Bologna, a Napoli, a Trento si sono cimentati e poi ci sarà la grande finale a Perugia, no Chiara? Sì, allora, si sono cimentati in che cosa? Nel talent show dedicato alla scienza, ne abbiamo parlato forse un paio di settimane fa, abbiamo detto che purtroppo noi non avremmo potuto partecipare perché... Comunicatori erano esclusi. I comunicatori, i giornalisti erano esclusi, potevano partecipare soltanto ricercatori e studenti che si occupassero appunto di materie scientifiche. Le selezioni sono state fatte e gli amici di Formica Blu, praticamente i nostri gemelli bolognesi che hanno una trasmissione, una radio Città del Capo e hanno una trasmissione di scienza che si chiama Pigreco Parte, ci hanno mandato diciamo l'audio delle loro selezioni perché loro erano gli organizzatori della puntata. Ricordiamo che tutti avevano a disposizione 3 minuti per fare una comunicazione divulgativa di scienza. E noi qui di Mebius ne abbiamo scelti due. Abbiamo scelto due ricercatori che ci sembravano più carini, tra l'altro uno di questi è andato in finale, vogliamo sentire prima lui? Esatto. Allora sentiamo Riccardo Guidi. La differenza fra ieri e domani è abbastanza chiara a tutti, giusto? Ieri me la facevo sotto per partecipare al Fame Lab, oggi continuo a farmela sotto e domani spero che questa esperienza sia passata. Il tempo è qualcosa di logico, di quasi ovvio, e quindi molti di voi penseranno, beh, sicuramente gli scienziati o i fisici avranno sicuramente tenuto in considerazione un parametro tanto importante. Se andate dal vostro fisico di fiducia, che si trova tra il farmacista e il salumiere, vi dirà che in realtà nessuna delle principali leggi della fisica tiene in considerazione il parametro del tempo. Gravità, magnetismo ed elettricità sono tutte formule che si possono scrivere senza neanche mettere la lettera T. Però quello che accade tutti i giorni non è esattamente questo, giusto? Quando feci cadere per terra la porcellana danese di mia zia, tra le scuse che usai non ci fu: oh zia, non ti preoccupare, la fisica è reversibile, quindi a un certo punto la porcellana continua a essere rotta. Che fine ha fatto il tempo quindi per i fisici? Bene, il tempo è semplicemente una questione di probabilità. È semplicemente più probabile che le cose avvengano in un modo e in una direzione piuttosto che in un'altra. Se faccio cadere una porcellana, quella si romperà ed è più probabile che i pezzi si spargano per tutto il pavimento piuttosto che non vedere i pezzi che si raccolgono dentro una porcellana. Vi faccio un altro esempio. Se entrate dentro un fast food e vedete 20 persone alla cassa, da lì a 10 minuti queste 20 persone saranno distribuite in tutti i tavoli, giusto? E non sarà molto difficile che ritroviate tutte quante in un angolo o tutte ordinate. Questo principio, questa probabilità semplicemente segna cosa c'era prima da cosa c'è adesso. E un principio del genere corrisponde, è una cosa che regola tutto, dalla gente al fast food a tutte le particelle del mondo, dell'universo, che tendono semplicemente a disperdersi. E questo dà una direzione. La domanda è: c'è qualcuno che sta facendo qualcosa per contrastare tutto questo? Ho davanti a me un sacco di persone che lo stanno facendo. Ognuno di voi, ogni cellula del vostro corpo sta in questo momento lottando disperatamente per tenere insieme i pezzi che la compongono, per non fare la fine della porcellana sul pavimento di mia zia. E per fare questo l'unico modo è consumare energia, bruciare carburante. Il motivo per cui il leone nella giungla caccia il fiore, cattura il sole, l'energia e noi facciamo la fila fast food è esclusivamente, in ultimo, la risposta che la vita ha contro l'inesorabile trascorrere del tempo. E ora Federico ti faccio ascoltare Alessandra Montanari, che purtroppo però non è stata selezionata per la finale. Invece ecco, diciamolo, i finalisti parteciperanno a Perugia alla finale, diciamo, italiana il 14 e il 15 aprile, quindi tra poco, e poi tutti quelli che sono stati selezionati dalla kermesse italiana si sfideranno con tutti gli altri europei a Cheltenham nel Regno Unito a giugno. Insomma, in bocca al lupo, e adesso ascoltiamoci Alessandra. Partiamo insieme da Bologna, andiamo verso le nostre montagne, magari verso il Trentino. Prima di partire magari ci fermiamo al bar e prendiamo un bel sacchetto di patatine da sgranocchiare durante il viaggio. Poi magari dimentichiamoci di aprirlo durante il viaggio e vediamo di arrivare tra le nostre montagne. Quando siamo comodamente rilassati, apriamo il nostro zaino e guardiamo il nostro sacchetto di patatine. Non è più come era prima quando non l'abbiamo comprata al bar, è diverso. Facendolo fare al mio collega sono riuscita a convincerlo a non andare in vacanza in montagna perché la pressione è alta. Glielo diceva tante volte il suo medico, ma lui non si voleva convincere di questo. Cosa succede al sacchetto di patatine? Noi risaliamo il nostro oceano d'aria, arriviamo verso, non la superficie, andiamo più in alto, la colonna di aria che abbiamo sopra di noi è minore e allora l'aria preme, sappiamo che preme, ma preme con un'intensità minore. E cosa succede? La poca aria residua all'interno del sacchetto si può dilatare e ce lo aumenta di volume. Nel sacchetto non succede nulla, nel nostro corpo invece sì. E se noi volessimo continuare questa salita, arrivare oltre, e qui lo possiamo fare solo virtualmente. Andiamo in quel laboratorio ideale in assenza di atmosfera che è la Luna. C'è chi c'è andato. Cercate sulla rete un filmato con David Scott, comandante dell'Apollo 15. Siamo nel 1971. C'è David Scott di fianco alla navicella. Ha nelle mani una piuma e un martello. Che cosa fa con questa piuma e questo martello? Vuole verificare ciò che Galileo aveva previsto e la Luna può darne la conferma. Li lascia cadere contemporaneamente e quello che non succederebbe qui, perché il martello arriverebbe al suolo velocemente e la piuma cadrebbe arrivando al suolo con notevole ritardo, non succede sulla Luna. La piuma e il martello di David Scott cadono parallelamente e, se lasciate cadere dalla medesima altezza, giungono al suolo nello stesso istante. L'aveva previsto Galileo, la Luna ne dà la conferma. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo arrivati al quiz, preparatevi. Fra poco, in chiusura della trasmissione, vi parleremo di robot Molly, come avete sentito dai titoli. Mentre ascolterete il servizio capirete se, ecco, le tre risposte del quiz di oggi. La prima, che hanno bisogno di circuiti flessibili, e ci scriverete circuiti, che possono essere utilizzati molto bene per spegnere gli incendi, e ci scriverete incendi. E infine, che si possono costruire solo con un tipo di caucciù amazzonico, e ci scriverete caucciù. Con il solito SMS 349-238-6666, il libro che si vince questa settimana. Una piramide di problemi, storia di geometrie da Gauss a Hilbert, scritto da Claudio Bartocci e edito da Raffaello Cortina. Questo libro, come sempre, è offerto da Librerie Rizzoli. Vabbè dai ragazzi, è banale, veniamo tutti da Marte, ci siamo portati dietro un po' di sassi. Beh, noi un po' marziani siamo in effetti. Ma sì, è questa la risposta. Comunque, un sassolino nella scarpa. Esatto, è un po' grossino questo. Beh, stiamo facendo chiaramente riferimento alla domanda di Diego d'Arcisate, ascoltiamola. Sentiamola. Bene, allora, ho letto che sono stati trovati in Marocco dei sassi provenienti da Marte. E quello che vorrei sapere è come hanno fatto, soprattutto come hanno fatto a partire, poi se è possibile quanto tempo ci hanno messo ad arrivare qui. È possibile saperlo. Per rispondere a Diego, questa settimana siamo andati all'Istituto Nazionale di Astrofisica e qui con noi c'è Diego Turini, che è appunto ricercatore dell'istituto. Buonasera Turini. Buonasera. Buonasera a lei. Vogliamo dare una risposta a Diego? Allora, i meteoriti marziani sono una famiglia che a oggi ha raggiunto circa 104 esemplari, trovati in giro per il mondo tra l'India, la Francia, il Marocco e una parte anche in Antartide, dove molti dei meteoriti vengono trovati. In realtà rappresentano una frazione molto piccola di tutti i meteoriti che abbiamo trovato oggi sulla Terra. Al momento se ne conoscono circa 45.000 classificati e certi come rocce provenienti dallo spazio, 10.000 che sono in fase di studio e di classificazione, e i meteoriti marziani di questi circa 60.000 oggetti rappresentano una frazione irrisoria, perché come dicevo prima sono solo un centinaio. Però come ci sono arrivati? Come ci sono arrivati? Allora, il meccanismo è lo stesso che funziona per produrre tutti i meteoriti che riceviamo sulla Terra dagli altri corpi del Sistema Solare, ed è quello degli impatti. Ossia, oggetti di dimensioni più o meno piccole dal punto di vista cosmico, quindi parliamo di da qualche metro fino a qualche chilometro, colpiscono la superficie di un pianeta o di un asteroide. La maggior parte del materiale che viene scavato nella formazione del cratere, che si forma in seguito all'impatto, rimane sulla superficie del corpo, ma una frazione viene lanciata nello spazio con una velocità superiore alla velocità di fuga dal corpo e quindi entra in orbita attorno al Sole. Quanto di questo materiale arrivi effettivamente nello spazio dipende da quanto è grosso il corpo da cui viene lanciato. Per esempio nel caso di Marte, per cui solo oggetti che hanno una velocità superiore a 5 km al secondo circa possono lasciare la gravità di Marte ed entrare in orbita attorno al Sole, la frazione di materiale che un impatto rilascia è molto piccola, è dell'ordine del 10% della massa del proiettile. Quindi ad esempio un meteorite da un chilometro che colpisse la superficie di Marte con una velocità simile alla velocità di fuga dalla superficie del pianeta farebbe sì che poche decine di metri di sassi raggiungerebbero lo spazio. Una volta che questi frammenti vengono scavati dalla superficie e vengono lanciati nello spazio, la situazione diventa complicata, nel senso che cominciano a subire le perturbazioni non solo del Sole, ma venire anche strattonati dai diversi pianeti ogni volta che fanno un passaggio ravvicinato. Anche se potrebbe sembrare strano, Marte gioca un ruolo relativamente piccolo in questa, o strattonare e lanciare questi frammenti in orbita che possono attraversare quelli della Terra, perché la sua massa è molto bassa. Un ruolo molto più importante viene svolto da Giove e da Saturno, che anche se sono molto più lontani, hanno una massa dell'ordine di 10.000 volte superiore. Quindi la gravità di questi pianeti tiene pallotta molto un di più. Po' questi. Sì, esatto. Quindi abbiamo detto degli oggetti velocissimi. Allora a questo punto quelli, come ci diceva Diego, che sono stati rinvenuti in Marocco, sicuramente erano di dimensioni abbastanza consistenti, molto veloci. E quanto più o meno possono averci messo? Tantissimo? Il grosso di questi meteoriti che vengono scavati da Marte da un impatto raggiunge la Terra su tempi che vanno dal milione alla decina di milioni di anni. In realtà l'efficienza con cui arrivano sulla Terra è piccolissima, solo il 5% dei meteoriti scavati da un singolo impatto raggiunge la Terra. Perché? In questo intervallo di tempo. Perché le perturbazioni di Giove e di Saturno fanno sì che l'orbita, invece di essere circolare, si allunghi, diventi un'ellisse. Questo fa sì che si allontani molto di più verso l'esterno del Sole e si avvicini molto di più al Sole rispetto a un'orbita quasi circolare. Ma senta, questa è tutta roba che continua ad arrivare, non è che è arrivata... No, è un processo continuo, sì. Un processo continuo. I primi meteoriti marziani si sono trovati a fine 800, se non sbaglio, però parliamo di una decina di campioni, adesso siamo arrivati al centinaio, quindi continuano ad arrivarne. Ogni impatto che colpisce Marte con sufficiente velocità produce nuovi di quei meteoriti, solo che solo una frazione piccola arriva. Quindi... Diciamo che non è proprio un viaggio diretto da Marte alla Terra, ma insomma ci si trova in un punto dello spazio quando si passa entrambi da lì. Diciamo che è come perdersi quelle strade per i vicoli di una città. Il giro è un po' tortuoso, ma alla fine ci arriva. Solo che la maggior parte di questi meteoriti vanno o a colpire il Sole, oppure verso l'esterno vanno a colpire Giove. Giove e il Sole raccolgono qualcosa come il 50-60% di tutti i frammenti. Perché sono grossi e massivi, attirano esatto. Tantissimo. Certo. E hanno una gravità molto più alta. Ecco, in realtà una frazione rimane in orbita molto più a lungo. I frammenti di un impatto possono metterci anche centinaia di milioni di anni ad arrivare. Però il grosso arriva molto più rapidamente. Sono stati trovati in Marocco e prima ci hai parlato anche di Antartide. Sì. C'è una ragione per cui si trovano qui, nel senso che arrivano più facilmente lì, o semplicemente è più facile vederli e trovarli? Perché non cadono nel centro di Roma? Su Colosseo, che è già un disastro. È un problema di geometria sferica, da una parte. Ossia, uno stesso angolo copre una superficie molto più grossa all'equatore che al polo. Quindi, se io lancio oggetti a caso e voglio vedere come si distribuiscono, li trovo molto più raggruppati al polo che all'equatore, perché hanno molto più spazio a disposizione. Quindi, in realtà, in Antartide li vedo perché sono più vicini. Però a parte questo argomento, è proprio una questione molto di semplicità. In Antartide vengono depositati nel ghiaccio e siccome la maggior parte di loro sono oggetti più scuri, si vedono circostante, si vedono molto più facilmente. Giusto. Invece quelli che cadrebbero, ad esempio, nella campagna romana, si confondono con gli altri. Si confonderebbero con i sassi intorno. Infatti, ad esempio, questo è un problema per i frammenti lanciati dalla Terra in orbita, ad esempio. Questo fenomeno avviene anche per la Terra. I frammenti dalla Terra vengono lanciati in orbita e possono ricadere anche sulla Terra, che comunque rimane il pianeta più grosso nelle vicinanze. Ecco, infatti, questa però è una cosa... si vedono facilmente. Volevamo chiedere, ma anche la Terra manda pezzi? Una trasmissione radiofonica su Marte potrebbe dire, abbiamo pezzi di Terra quassù? Però probabilmente in una frazione molto più bassa, perché la Terra ha una gravità molto più elevata, la velocità di fuga dalla Terra è circa 11 km al secondo, da Marte 5, quindi un oggetto deve essere lanciato con una velocità doppia rispetto a quella con cui deve essere lanciato da Marte per raggiungere lo spazio, ma avremmo, molto più difficile. Ma avremmo bisogno anche di essere colpiti da meteoriti che, come dire, farebbero notizia, no? Esatto, siccome noi siamo fortunati e i grossi impatti sulla Terra non ce ne sono più stati dall'estinzione dei dinosauri e anche impatti come Tunguska hanno fatto danno perché sono caduti su foreste, quindi hanno creato anche incendi, però erano oggetti relativamente piccoli. Non buttano fuori niente, rimane tutto sulla superficie della Terra. Invece impatti molto grossi come quello che dovrebbe aver fatto estinguere i dinosauri possono aver lanciato frammenti che rimangono in orbita. Il problema è che la roccia in quel caso avrebbe la stessa composizione o quasi della roccia terrestre. Queste rocce spaziali che tra l'altro hanno un mercato floridissimo, nel senso che vengono vendute a peso più dell'oro, come facciamo a sapere che sono marziane piuttosto che venusiane? Allora, quelle di Marte sono state identificate sulla base della comparazione con le osservazioni fatte dalle missioni Viking, perché le missioni Viking avevano osservato la composizione dell'atmosfera di Marte e l'atmosfera di Marte ha un'abbondanza di gas nobili, ad esempio l'argon, il neon. Quindi fanno un paragone, ecco, tra la composizione e si capisce esattamente. Guardandole che le sacche di gas intrappolate nella roccia di queste meteoriti da Marte, l'abbondanza di questi elementi non somiglia a quella della Terra, non possono provenire dalla Terra e l'unico pianeta che conosciamo con questa abbondanza di elementi volatili è Marte. Va bene, perfetto, grazie mille Turini, siamo veramente soddisfatti. È stato un piacere. Grazie, arrivederci. Buonasera. In realtà qui nessuno vuol dire la verità, siamo marziani, ci siamo portati dietro i sassi, dai. Va bene. Ma sì, è così. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ma come sarà stato questo animale? Un grande dinosauro piumato, non grandissimo, ma però piuttosto grande, abbastanza simile al T-Rex, con tutte queste piume colorate probabilmente, con una specie di gallo gigantesco. Che cosa faceva? Dei chicchirichì che squassavano le montagne? Insomma, va bene, Chiara Albicocco vi racconta di questa scoperta. Più che un gallo gigante, Federico, immaginiamolo un po' come un tirannosauro piumato proprio, con delle piume un po' soffici e corte. Ma insomma, per raccontarci questa scoperta veramente formidabile, abbiamo chiamato il nostro Cristiano Dal Sasso. Intanto buonasera, Cristiano. Buonasera a voi. Scusa, ti do del tu perché in realtà sei una vecchia conoscenza di Mebius, ogni tanto ti intervistiamo perché sei il paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano che ha studiato Ciro e il nostro dinosauro italiano e questa volta ti chiamiamo perché appunto è uscita questa notizia su Nature proprio l'altro ieri sul dinosauro gigante dalle piume di Pulcino. Allora, più che un grosso gallo possiamo immaginarlo quasi con una forma da tirannosauro, ecco, però con le piume. Intanto, come mai ci arriva notizia di dinosauri con le piume? Perché in realtà c'è tutta una questione evolutiva. Sì, si era ipotizzato già molti anni fa che dinosauri carnivori fossero i diretti e veri antenati degli uccelli sulla base di somiglianze nello scheletro. Fino a pochi anni fa si avevano a disposizione soltanto le nude ossa, ma una serie di eccezionali ritrovamenti che sta continuando in una regione della Cina che è la provincia di Liaoning, da cui viene anche questo fossile, ormai ci testimonia che alcuni dinosauri carnivori man mano si sono trasformati in quelli che noi oggi chiamiamo uccelli e abbiamo ormai tanti fossili che ci testimoniano tutti i passaggi intermedi di questa incredibile trasformazione evolutiva dei vertebrati. E fino a questa scoperta, diciamo questa ultima scoperta in questo sito cinese, pensavamo però che questi dinosauri avessero delle dimensioni ridotte, insomma fossero veramente della grandezza di un pollo. Invece questo che hanno ritrovato, ne hanno ritrovati ben tre, sarebbe insomma grosso quasi 9 metri e peserebbe all'incirca 1400 kg, quindi insomma un bel pollo casomai. Sì, certo, e quando abbiamo studiato il nostro dinosauro italiano abbiamo fatto molti confronti con i dinosauri di piccola taglia trovati in questi giacimenti, perché sono dei veri e propri cugini del nostro Ciro, del nostro Scipionix, ma sono comunque animali che fino ad ora non hanno mai superato i 2 metri e quindi si è sempre spiegata la presenza di filamenti, piume e protopenne su questi dinosauri con la necessità che dovevano avere degli animali di dimensioni medio-piccole di mantenere una temperatura corporea abbastanza costante, quindi di mantenersi caldi. Ecco, infatti. E quindi come si spiega? Si spiega col fatto che evidentemente queste strutture non servivano soltanto per isolare termicamente il corpo. Uh-huh. Anzi, è probabile che le protopenne, i primi filamenti piumati, siano comparsi anche con una molteplicità di altre funzioni, come peraltro hanno oggi negli uccelli, per esempio la funzione di display, di farsi vedere a distanza, vengono usate durante il corteggiamento. Questa è certamente una scoperta clamorosa che spiazza un po' anche gli addetti ai lavori, perché si tratta di un vero e proprio tirannosauro, anche se piuttosto primitivo. Infatti, è pur imparentato con uno dei dinosauri più conosciuti, insomma il T-Rex. Sì, questi tirannosauri hanno circa 50 milioni di anni in più, diciamo, sono molto primitivi rispetto a quelli nordamericani, hanno ancora 3 dita negli arti anteriori e altre caratteristiche abbastanza primitive. Però più o meno, già Cristiano, protopenne. Sui 130 milioni di anni, un po' meno forse? Sì, esatto. Ecco. E questo qui è anche un periodo, l'inizio del Cretaceo, in cui faceva un po' più freddo che nel Cretaceo superiore e quindi si comincia a pensare che se non altro queste protopenne o piume primitive in certe condizioni climatiche insomma non dispiacessero proprio a questi grossi animali, anche se appunto essendo grandi avrebbero probabilmente conservato a lungo in ogni caso il calore prodotto all'interno del corpo. Quindi anche per una questione diciamo di termoregolazione proprio. E da dove diciamo derivano queste piume? Possiamo immaginarle un po' come le piume di un pulcino, non so, oppure colorate, non ho idea. Dal punto di vista dell'origine evolutiva si pensa che siano una modificazione delle squame, cioè anche a livello, studiando l'ontogenesi, cioè lo sviluppo degli embrioni degli uccelli, si vede che la penna nasce come una gemmazione di una specie di squama primitiva, ecco, quindi questa è nel corso della crescita dell'animale la sua formazione. Che potessero essere colorate, non lo possiamo sapere. Sono stati trovati in dinosauri dello stesso giacimento i cosiddetti melanosomi, che sono delle tracce della presenza di melanina all'interno delle strutture tegumentarie, e quindi già su alcuni animali si è fatto uno studio della distribuzione del colore, o perlomeno si è capito dove c'era la penna scura, dove c'era la penna chiara. Alcuni di questi animali avevano delle piume primitive iridescenti che quindi servivano anche per riconoscersi a distanza, ecco perché si pensa che la funzione fosse molteplice, così come, ripeto, negli uccelli attuali. E magari anche una differenza tra dimorfismo sessuale, tra appunto maschio e femmina, chissà. Perché no, perché no. Una cosa interessante di questo studio è che ci sono 3 individui in vari stadi di crescita. E anche quello più grande, che raggiungeva i 9 metri, ha queste piume, quindi non si pensa più che magari i pulcini le avessero e che poi le potessero perdere durante la crescita dell'animale, rimanevano anche nell'adulto. E quindi un po' da queste scoperte, insomma, Cristiano, la paleontologia si apre e si apre a nuovi scenari e chissà quante altre domande ancora non risposte ci sono. Quindi ci sentiamo presto, direi. Grazie. Grazie a voi di nuovo. Andiamo a Benevento adesso, dove trovo Luigi Glielmo. Buonasera Glielmo. Buonasera, buonasera a lei. E Daniele Davino. Buonasera Davino. Buonasera, buonasera. Tutti e due fate parte di questa avventura importante che è l'incubatore che si è appena aperto a Benevento sotto l'ala dell'Università del Sannio. Luigi Glielmo è ordinario di automatica all'Università del Sannio e anche responsabile di questo incubatore. E invece Daniele Davino è un socio di una delle aziende, sono 5 aziende che partono con questo incubatore. Glielmo, l'idea di aprire incubatori in Meridione, insomma, dove è importante fare impresa, fare ricerca, è decisamente un'idea difficile, ma tanto difficile quanto importante, no? È difficile, quindi io sono molto soddisfatto del risultato e anche l'inaugurazione è stato un evento emozionante con molta partecipazione, quindi la questione è sentita, sì. Partite con 5 aziende, mi pare anche che la struttura sia abbastanza interessante, ne parlavo prima dell'intervista con Davino, c'è una, come dire, una forte osmosi, no? Tra l'incubatore, l'università, quindi gli studenti, c'è la possibilità di una frequentazione ravvicinata. Sì, sì. Sembra un aspetto che lo differenzia da altri incubatori che pure sono presenti in città, nati con altri progetti, eppure che hanno avuto un po' di successo, però erano più lontani dalle aule universitarie. Io conto molto sull'effetto imitazione. Certo. Il progetto da cui nasce era un progetto della facoltà di del Dipartimento di Ingegneria, però io spero che possa attirare intelligenze dalle altre facoltà, ci sono gli studenti di economia, di biologia, geologia. E poi è verissimo quello che lei dice, cioè nel riuscire a sviluppare una cultura dell'innovazione, del rischio, dell'impresa, il fatto di avere vicino chi la fa è importantissimo per chi può decidere di iniziare a fare una carriera di questo genere, no? A mettere su imprese, sì, sì. Questo è veramente importante. Intendo portare i ragazzi all'incubatore che sta a 2 passi dalle aule. Certo. Senta Davino, lei è contento insomma di questa partenza e di questo involucro in cui vi siete inseriti? Vi sembra che abbia una bella prospettiva? Infatti va detto che questo progetto, cioè innanzitutto il progetto che era la base dell'incubatore Incipit, ci ha fornito dei servizi utilissimi per una realtà che ancora deve partire. Cioè, infatti a parte l'incubatore voglio anche citare l'aiuto che ci ha fornito per lo studio di brevettabilità della nostra idea progetto. Che è altrettanto importante per chi si muove, per chi fa i primi passi, diciamo, certo, nel mondo delle aziende. Ricordiamo, esatto, che l'incubatore è anche una struttura che deve fornire dei servizi alle aziende che ne fanno parte e uno dei più delicati, complessi, è quello della brevettazione, che molti pensano sia un'operazione automatica, mentre invece è molto complicato decidere come, cosa, quando, certo, brevettare. Voi lavorate in un settore particolare che ha a che vedere con l'automobile, e in particolare mi pare su i sistemi di iniezione nei motori. Ci dica qualcosa di quello che state facendo. Allora, nello spirito del trasferimento tecnologico va detto che appunto come ricercatore all'università, nel gruppo in cui sono inserito, lavoriamo da un po' di anni sui materiali multifunzionali, i cosiddetti materiali smart. Qualche anno fa ci è venuto in mente di utilizzare questi materiali nel campo automotive per realizzare un iniettore di carburante, quindi diciamo un componente presente in tutti i motori moderni, a controllo continuo di portata. Ecco, mi aveva già detto qualcosa prima dell'intervista, è un concetto abbastanza importante, interessante, cioè controllo continuo di quanto carburante viene messo nel motore, no? Sì, sì, senza entrare in dettagli forse eccessive, un po' complessi, sì. Sì. Se posso fare un paragone, le tecnologie, sì, attuali permettono di iniettare il carburante come se fossero dei rubinetti che sono o completamente chiusi o completamente aperti, non ci sono posizioni intermedie, mentre la nostra tecnologia dovrebbe, uso il condizionale perché si tratta di ricerca, state iniziando. E quindi c'è una fase di sviluppo ulteriore da effettuare, di verifica, la ricerca, cioè dovrebbe promettere un controllo continuo, cioè appunto sarà possibile immettere il carburante come se fosse un rubinetto tutto chiuso, tutto aperto, ma anche le posizioni intermedie, cioè il carburante potrà fluire secondo le scelte fatte dai motoristi. Questo è un po' un principio fondamentale del risparmio energetico, e cioè noi abbiamo tanti strumenti, tante situazioni nelle quali l'energia viene tendenzialmente erogata ad un botto, cioè o tutto o niente, mentre invece si può ottenere un grandissimo risparmio se la si può modulare, no? E quindi questo vuol dire che potremmo avere anche sui motori classici, insomma, tradizionali, dei risparmi significativi. Questo è il vostro obiettivo? Ci sono degli studi pubblicati che indicano che uno strumento del genere, un iniettore a controllo continuo di portata, porterebbe sicuramente a una riduzione degli inquinanti prodotti dal motore e in generale a un aumento dell'efficienza di combustione. Ielmo, siete fiduciosi? Sono molto fiducioso. Noto ancora una volta da esperto di controlli automatici come questa interazione tra piccole grandi innovazioni di materiali e poi algoritmi che vanno su di essi, si sposano secondo me molto bene con le capacità italiane e anche, se vogliamo dire, anche con certe ridotte disponibilità finanziarie di cui il nostro paese in questo momento soffre. Certo. Credo che sia possibile fare con relativamente poco, avviare questi studi e poi dobbiamo però cercare insieme capire come recuperare quelle disponibilità finanziarie che servono per andare avanti. Grazie Ielmo, buon lavoro. Grazie a voi per l'interesse. E grazie anche a Daniele Davino, anche a lei auguri per la ricerca. Grazie mille, grazie. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Cecilia Laschi, buonasera. Buonasera. L'ultima volta che ci siamo sentiti lei aveva solo un pezzo di un tentacolo, adesso Alberto Agliotti qua mi dice che avete il polpo intero? Sì, siamo andati molto più avanti. Sì, diciamo che c'è il primo prototipo, in realtà già un paio di primi prototipi di un robot completo che ha un corpo centrale più 8 braccia. Ma è polposo, cioè effettivamente assomiglia a un polpo. Ha la faccia da polpo. No. Beh, la faccia non proprio, anche perché è difficile individuarla anche nell'animale, a dir la verità. Comunque ha 8 braccia che sono completamente morbide, diciamo, non hanno parti rigide. Infatti si chiama Octopus. Octopus. Octopus. E morbide è la parola chiave. Esatto. Sì, introduce è la parola Alberto. Chiave di tutto il progetto, che appunto si chiama Octopus, e da questo il nome del prototipo, e che è evidentemente ispirato al polpo comune, all'animale che conosciamo, che siamo abituati a conoscere soprattutto per, diciamo, le sue proprietà culinarie. Però Cecilia Laschi dobbiamo presentarla, non abbiamo ancora detto chi è lei, Alberto. Allora, Cecilia Laschi della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa è responsabile del progetto Octopus. Sì. Scuola Sant'Anna, che è, come dire, una frontiera non solo a livello italiano ma internazionale della robotica, della ricerca in robotica, quella più avanzata. Insomma. Nel caso della dottoressa, nella robotica cosiddetta molle. Sì, esatto. In particolare io lavoro presso l'Istituto di Biorobotica, quindi questo bio nel nome già ci identifica molto con l'ispirazione biologica. Il polpo è appunto un esempio di questo e soprattutto è un bellissimo esempio, un bellissimo modello da imitare nel caso in cui si voglia pensare di costruire dei robot, appunto, chiamiamoli morbidi, quella che si chiama a livello internazionale soft robotics. Questo è un concetto abbastanza nuovo in robotica, perché la robotica per sua natura si basa proprio sul concetto di parti rigide in movimento che poi possono essere controllate per eseguire i movimenti che sono necessari. E tutte le teorie e le tecniche anche di controllo dei robot si sono sempre sviluppate a partire da questa assunzione di base. Quindi provare a scardinarla è stata un po' la sfida, ed è tuttora la sfida della soft robotics, cioè proviamo a costruire dei robot che invece non abbiano parti rigide. È possibile o non è possibile, con quali materiali, come poi riusciamo a controllarne il movimento? Ecco, perché normalmente uno si immagina un cervello centrale, diciamo, che coordina tutti gli spostamenti, un po' come l'immagine che noi abbiamo anche di noi stessi, cioè il cervello che ci dice cosa fare, che dice ai singoli arti come muoversi e come comportarsi, ma in realtà non è esattamente così neanche per quanto riguarda l'uomo, giusto? Diciamo, una visione moderna dell'intelligenza artificiale attribuisce un ruolo importante anche proprio alla fisicità del corpo, cioè alle proprietà meccaniche dei materiali, nel caso degli animali, dei tessuti, ma anche proprio alla morfologia del corpo e specificamente all'interazione con l'ambiente. Quindi a noi sembra appunto di controllare ogni nostro movimento sulla base di decisioni che prendiamo, di informazioni sensoriali che arrivano, però in realtà una buona parte del controllo del movimento viene fatto già dalle nostre strutture, ora nel caso dell'uomo appunto le strutture muscolari o scheletriche. C'è una buona parte di intelligenza anche nelle dita, nelle mani, nei piedi, insomma, no? Non questa idea, diciamo, che il cervello è la centrale assoluta è sbagliata ormai. Sì, ora non completamente sbagliato, poi no, ovviamente nell'uomo il cervello è una parte molto importante. Se andiamo a vedere animali, diciamo, più semplici, per usare un termine così neutro, questo è ancora più evidente. Quindi animali come il polpo, primo fra tutti, che hanno un cervello ridotto e che invece hanno una capacità di movimento molto molto elevata, come appunto il caso del polpo. Ma cosa ci serve ad esempio costruire robot di questo tipo? Quali sono le applicazioni che possiamo avere? Beh, tutte le applicazioni in cui il robot possa andare direttamente a contatto con l'ambiente, interagire con l'ambiente. Noi abbiamo qualche esperienza di robotica marina. In robotica marina normalmente i robot sono ovviamente rigidi e devono mantenersi a distanza dal fondale, dagli scogli o da eventuali impianti che debbano ispezionare. Questo per evitare danneggiamenti sia a se stessi che all'ambiente o all'impianto. Un approccio soft come quello di Octopus sarebbe perfettamente complementare, quindi potrebbe essere un robot che invece va sul fondale, può esplorare il fondale, quindi anche le rocce, gli scogli e così anche in invece impianti che siano costruiti dall'uomo. Che questa morbidezza, diciamo, aiuta molto il movimento, come ci ha spiegato adesso, e anche però la presa, o meglio, viene abbandonata la morbidezza quando serve una presa più rigida, che con un robot normale necessita un controllo molto molto sofisticato. Cioè, più duttile, diciamo. Esatto, la presa, diciamo, che è più adattiva. Questo è un concetto molto, molto importante, perché in robotica ho detto che siamo sempre partiti dal concetto di strutture rigide, ma c'è un motivo, perché noi vogliamo che il robot poi possa applicare delle forze sull'ambiente per svolgere i compiti che deve svolgere. Quindi è chiaro che parlare di soft robot così implica che poi questo robot non sia in grado di applicare queste forze sull'ambiente. Invece quello che si osserva nel polpo è proprio la capacità di controllare la rigidezza, quindi noi lo consideriamo morbido perché questo è l'aspetto che ci stupisce di più, però in realtà il polpo è in grado di irrigidire una parte del braccio per compiere delle azioni sull'ambiente. Certo, come fanno per esempio anche i serpenti. Senta, ma la tecnica per costruire, tutte le procedure per costruire questi robot molli, hanno delle singolarità, delle particolarità? Perché noi infatti immaginiamo tutti i circuiti duri, rigidi, insomma. Però adesso cominciano a esserci i circuiti molli, no? Sì, un po' di elettronica flessibile la stiamo usando anche sul polpo. In realtà i problemi più importanti li abbiamo trovati nell'individuare i materiali con cui costruire proprio la struttura fisica. E il vero problema tecnologico importante sono gli attuatori, cioè quello che permette il movimento poi di queste strutture. Quindi noi stiamo usando degli attuatori non convenzionali, stiamo usando nel caso del braccio, del polpo, delle molle SMA, SMA sta per Shape Memory Alloys, cioè delle leghe a memoria di forma che hanno la proprietà di tornare a una posizione originaria di partenza solamente con la variazione della temperatura, e per far variare la temperatura è sufficiente applicare una corrente. Quindi immaginatevi dei fili sottilissimi che vengono deformati in condizioni particolari e che poi riscaldati tornano alla forma originaria. E anche questa si può definire intelligenza dei materiali? Sì, infatti si usa anche la parola smart materials per indicare questi e altri materiali. Certo. Sì. Quindi nel nostro caso li abbiamo sviluppati in una forma a molla, a spirale, che quindi quando vengono riscaldati tendono a contrarsi. E questi sono inseriti all'interno del braccio, quindi non possiamo considerare le parti rigide, quindi il braccio rimane comunque completamente morbido, però ha queste componenti interne che permettono le contrazioni. Cecilia Laschi, noi la lasciamo, ci risentiamo quando avrete messo a punto la seppia e buon lavoro, buona ricerca. Grazie. Buonasera, grazie. Grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci. Una delle cose più interessanti delle tecnologie informatiche attuali e soprattutto di quelle che verranno è quando esse si applicano alla conservazione della memoria e quindi erogando una potenza di archiviazione che la nostra specie, la nostra umanità nella sua storia non ha mai avuto. Di un esperimento di questo genere vi parla adesso Chiara Albicocco. nelle memorie di tante persone si è completamente cancellata. La grossa illusione che ha colpito Roma nel 1938. Io sono stato uno spettatore diretto perché abitavo a Ponte Meglio, che poi prese successivamente il nome di Ponte Mollo. La mattina ci svegliamo, dalle finestre vedevamo che il Trevere, invece di fare le solite anse dell'acqua cetosa, cioè tre o quattro curve, veniva completamente dritto. E ricordo l'esame d'ammissione, mio padre mi portò in bicicletta, sulla canna della bicicletta, San Felice su Panà, 8 km di distanza, e la scuola era stata bombardata, era ancora dove era sfollata prima, cioè in una stalla. E appena entrai mi mise a ridere perché c'erano questi professori con dietro la mangiatoia vuota, no? Cominciai a ridere come un matto, forse mi ha salvato. Sono nato nel borgo di Glorioso, borgo di Vanchiglia, in via Carino 4 bis, centro, se la mole cade tutta quanta va a finire sul tetto di casa mia. Era il quartiere, tipico quartiere operaio. Queste sono le voci che la Banca della Memoria raccoglie e conserva. Ognuno di noi ha qualche immagine come questa del passato che vorrebbe non fosse mai dimenticata. Un giardino speciale, una vecchia bottega, ma anche un racconto di un nonno sulle trasformazioni della piazza cittadina soltanto 50 anni fa. C'è qualcuno disposto ad ascoltare tutti i nostri racconti, prima che vadano persi per sempre. E sono i fondatori della Banca della Memoria, un progetto no profit dedicato alla raccolta delle esperienze e dei racconti di vita delle persone nate prima del 1950. Li trovate su memoro.it e la fondatrice è qui con noi questa sera. Benvenuta Valentina Vaio. Buonasera a tutti. Parliamo di Memoro, questa banca della memoria. Intanto che cos'è e come vi è nato questo progetto molto peculiare? Allora, la banca della memoria non è altro che un sito internet all'interno del quale sono raccolti, salvaguardati e diffusi i ricordi di persone nate appunto prima del 1950. Questi ricordi vengono raccolti in due formati principalmente, ovvero in video o in audio, e sono delle brevissime clip in cui una persona che possiamo definire anziana ci racconta qualcosa del suo passato. Quando dico qualcosa intendo veramente un qualsiasi ricordo che può toccare qualsiasi tema, quindi temi magari un po' più drammatici relativi al periodo della guerra, come anche temi un po' più frivoli o un po' più quotidiani, quindi come ci si divertiva una volta. Sì, si trova un po' di tutto, infatti curiosando si trovano come si vivevano le vecchie storie d'amore, ma anche come erano fatte le piazze di Torino, di Milano, di Palermo, si trova veramente un po' di tutto. Avete anche degli audio di qualche VIP in cui racconta appunto come ha vissuto la guerra, come ha vissuto la sua città o magari il passaggio da una piccola cittadina alla grande città dove si andava per lavorare. Esattamente. Perché siamo dell'idea che qualsiasi tipo di esperienza abbia la sua importanza e meriti di essere messa al sicuro appunto all'interno di una banca. E quindi l'avete riempito e state continuando a riempirlo di aneddoti e di cose divertenti e anche pregiate, perché oltre ad esserci ovviamente cose frivole ci sono anche dei racconti importanti sull'Olocausto, sulla Seconda Guerra Mondiale, su eventi importanti che hanno segnato il nostro paese e non solo. Ci racconti magari qualche aneddoto andando a cercare nelle piazze cittadine chi avete incontrato, che cosa vi hanno raccontato? Ma certo, guarda, in ormai 4 anni di attività abbiamo veramente avuto la fortuna di conoscere e incontrare tantissime persone, tutte estremamente diverse, tutte estremamente interessanti. Per esempio ci viene in mente quando abbiamo conosciuto la signora Liliana, che è una signora che vive a Roma e che ci ha invitato ad andare a casa sua appunto perché voleva raccontarci la sua storia, ed è stata una delle serate davvero più divertenti che abbiamo mai vissuto, perché questa signora ci ha accolto in questa casa bellissima e 2 caraffe di gin tonic, perché sosteneva che così ci saremmo divertiti di più e sarebbe passato più il tempo. Questa signora aveva 85 anni. Però non aveva torto, ma soprattutto è incredibile come lei riuscisse a bere questo gin tonic tranquillamente e alla fine della serata invece io e Lorenzo, il mio collega, fossimo al picci, e lei era veramente una donna fantastica che tra l'altro dopo 1 ora e mezzo di intervista ci ha confessato che in realtà lei non era di Roma ma era di origini di Boves, che è un paesino in provincia di Cuneo, ma che non aveva il coraggio di dircelo perché aveva paura che se avessimo scoperto che anche lei come noi era piemontese non ci sarebbe interessata così tanto la sua intervista. Incontrate persone di tutti i generi e diciamo che il progetto, questa importanza di raccogliere le memorie, ha avuto successo in Italia, ma poi avete allargato i confini, siete andati anche negli altri continenti. Siamo anche andati negli altri continenti, sì, perché abbiamo avuto la fortuna di essere, che si parlasse del nostro progetto anche in alcuni giornali esteri e di ricevere di conseguenza alcune mail di diverse persone che ci facevano i complimenti per l'idea e ci chiedevano se era possibile replicarla anche nel loro paese. Noi ovviamente il nostro sogno era quello, appunto, un giorno di poter avere una banca della memoria mondiale, perché certo, comunque la memoria è un bene senza che non ha confini, e quindi ovviamente abbiamo sempre accettato e ad oggi per fortuna banca della memoria è presente in 14 paesi del mondo e in 4 continenti. Buon lavoro Valentina, davvero, e in bocca al lupo per il vostro progetto. Grazie mille, buona serata a tutti. Abbiamo chiuso e abbiamo pochi secondi oltretutto per chiudere. Salutare. Buona settimana a tutti. Buona settimana a tutti e tutte. Ciao. Ciao, arrivederci.